si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buon sabato cari ascoltatori, ben ritrovati. Si può fare l'altra attualità, quella che cerca con il lanternino le buone notizie della settimana, quella che indaga tra le nuove tendenze per capire che cosa ci salverà dalla grande crisi. Per esempio, cose così, mentre ieri e sui giornali di oggi l'Italia discute dell'Election Day, il Consiglio dei Ministri ha approvato, sì vabbè è un disegno di legge, però intanto un disegno di legge per la salvaguardia dei terreni agricoli contro la cementificazione. Per 5 anni le aree che hanno ricevuto fondi per questo non potranno essere oggetto di nuove costruzioni. Adesso la legge dovrà passare in Parlamento, però insomma è una cosa importante. Poi dice che la gente si butta nell'antipolitica e ti credo, perché sui giornali oggi non c'è traccia di questa notizia, si parla solo dello scontro tra Bersani e Alfano per la data delle elezioni, bla bla bla. Se c'è l'antipolitica, qualche colpa forse ce l'hanno anche i giornalisti. 800 24 00 24. Un'altra notizia su cui tra l'altro vogliamo il vostro intervento, cari amici di Napoli, e oggi di là dal vetro qualcuno mi sta particolarmente ad ascoltare, è stata inaugurata dal sindaco De Magistris pedalando un primo tratto della nuova pista ciclabile in questa zona di pedonalizzazione nuova lungomare, che sta però facendo discutere. Qualcuno dice una ciclabile sghemba sui generis rispetto a tutto il resto del mondo, preceduta da molte polemiche, perché c'è chi dice che non va bene, che non è stata realizzata bene. 800 24 00 24. Siccome invece noi qua siamo perennemente amici delle biciclette, ci piace che sia stato inaugurato questo tratto di ciclabile che dovrà congiungere alla fine 20 km da Bagnoli a San Giovanni a Teduccio. Allora amici napoletani, 800 24 00 24, vogliamo sentire la vostra voce su questo progetto, se vi piace o se non vi piace. L'ultima segnalazione riguarda settimana prossima, la settimana del baratto, dal 19 al 25 novembre, la quarta edizione. Che cosa succede? Si potrà soggiornare nei bed and breakfast che aderiscono a questa iniziativa, e li trovate sul sito www.bed-and-breakfast.it. In cambio di beni e servizi, cioè non si paga, ma si può dare qualche cosa in cambio. Partecipate a questo nuovo modo di pensare anche l'ospitalità, ed è un modo anche per risparmiare, dal 19 al 25 novembre. Insomma, cose così. Sulla pagina Facebook si può fare trattino Radio 24, aspettiamo le vostre buone notizie, le vostre segnalazioni. Poi tra poco in diretta 800 24 00 24. Delle buone pratiche della pubblica amministrazione presentate alla fiera Dire Fare dell'ANCI a Firenze dal 14 al 16 novembre, è il primo comune italiano ad aver aderito alla strategia internazionale dei rifiuti zero, ma è anche il comune dove il bilancio, quello dove si muovono i soldi, si fa con la partecipazione dei cittadini in modo trasparente, lasciandosi alle spalle le polemiche sulle tasse e sullo Stato ladro per una volta tanto. Siamo a Capannori, salutiamo il sindaco Giorgio Del Ghingaro, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, ci sono tante cose da dire che vi riguardano. Partiamo però dall'esperienza del bilancio partecipativo. L'anno scorso avete messo a bilancio 400.000 euro, poi adesso lei ci spiegherà tutto nel dettaglio. Io adesso vado per sintesi, perché i cittadini potessero decidere loro che cosa farne, insomma, in opere pubbliche. e poi altri progetti. Però iniziamo da questo. Opere che tra l'altro sono state realizzate in questi giorni, in questo periodo. Che cosa avete costruito con questi soldi, prima di tutto, Sindaco? Ma con questi soldi sono state migliorate le scuole, sono stati fatti dei progetti ad hoc per alcuni istituti comprensivi. È stato un progetto molto bello perché hanno aderito tanti cittadini. Noi abbiamo selezionato tra i nostri 46.000 cittadini 80 tramite un'azienda specializzata, sì. 40 donne e 40 uomini, pescandoli assolutamente a caso nelle 40 frazioni del nostro comune, sì. e abbiamo privilegiato naturalmente i giovani e c'era una rappresentanza anche degli immigrati, delle donne e degli uomini che ci vengono a trovare a Capanna. Posso dire una cosa subito su questo, se non la stava per dire lei? Avete però fatto in modo di in questo passaggio di escludere i cosiddetti professionisti della partecipazione, cioè presidenti di associazioni, enti, sì, che sì. Insomma sono importanti, il volontariato, sì, il mondo del gioco, però voi volevate proprio la gente, quella con la G. La gente normale, diciamo così. Infatti lo stavo per dire, non abbiamo accolto, diciamo così, in questo gruppone di 80 persone, né politici né coloro che per mestiere in qualche modo fanno appunto partecipazione, per cui erano cittadini normalissimi, quello della porta accanto, il vicino della porta accanto, che decideva appunto del bilancio, di una parte del bilancio del comune di Capanna. E cosa hanno scelto? Perché questo è importante dirlo, proprio vedere la gente che cosa, in che cosa ha voluto investire questi soldi. Allora, scuole, qui devo dire che però i presidi, i dirigenti mm-hmm. scolastici sono stati molto, molto intelligenti. Perché? Perché noi avevamo previsto la settimana del voto, quindi questi 80 sì. cittadini avrebbero dovuto predisporre dei progetti, vari progetti, e sottoporli al voto di tutti i cittadini di Capannari. Così è stato fatto, però i dirigenti scolastici hanno attivato la rete comunicativa scolastica appunto in maniera tale da attrarre più voti possibili. Infatti i 4 progetti scelti tra i 12-13 che erano stati predisposti sono tutti progetti relativi alle scuole. In particolare nella circoscrizione 1 si è scelto di ristrutturare la scuola con un progetto che si chiama Scuola Colorata. Nella circoscrizione 2 è uno spazio per giocare, è stato costruito uno spazio per giocare all'aperto per i bambini. Nella circoscrizione 3 si è privilegiato il giardino, quindi la costruzione di un giardino nuovo nella scuola, e la circoscrizione 4 alcune attività inerenti sempre l'attività educativa e scolastica. Quindi, insomma, puntare sul futuro. I ragazzi che vanno a scuola alle elementari non sono attualmente elettori, a voi giustamente non ve ne frega niente, vi interessa di fare dei progetti, ed è per questo che avete chiamato i cittadini a decidere, fare delle cose sul presente che guarda al futuro. De Ghingaro, la domanda è questa: andate avanti con questo progetto, lo rifarete? Certo che lo rifaremo anche quest'anno, cioè nel 2013, l'abbiamo già programmato e aumentiamo la posta, questa volta 500.000 euro a disposizione sempre dei cittadini di Capannori, che decideranno quali altri progetti sono necessari per il nostro territorio. È un'esperienza straordinaria questa, perché è stata vivissima, partecipatissima, e soprattutto la cosa positiva è che dopo i progetti ci sono state le realizzazioni. In pratica tutte le opere previste sono state fatte. Fatte e sì. inaugurate dagli stessi cittadini a distanza nemmeno di un anno. E io voglio dire a chi ci sta ascoltando, che qualcuno so già che mugugnerà: vabbè, ma sì, 400.000 euro, cosa vuoi che siano, qua non è questo che risolve. No, è un comune di 46.000 abitanti, 400.000 euro non sono pochi, e comunque sono quello che sono, e sono stati messi a disposizione in questo modo per realizzare delle cose concrete, coinvolgendo, e questo è un altro valore aggiunto, perché non va sottovalutato. Così è anche vero, Sindaco, più difficile lamentarsi delle scelte della politica quando si viene coinvolti a decidere, no? È una buona notizia due volte. Ma guardi, per noi era fondamentale intanto appunto che i cittadini prendessero delle decisioni, ma volevamo anche dimostrare ai cittadini come non è semplice nella pubblica amministrazione, nonostante la decisione assunta, poi realizzare le opere, perché c'è un iter burocratico complesso, ovviamente trasparente, che non è simile a quello che adottiamo a casa nostra da privati cittadini, perché ci sono le gare, ci sono le realizzazioni delle aziende che poi devono essere pagate, dobbiamo reperire preventivamente le risorse, insomma c'è un iter complesso. E a noi ha fatto particolarmente piacere che questi cittadini abbiano capito che dal dire al fare appunto c'è di mezzo il mare, però hanno dimostrato poi loro assieme all'amministrazione comunale che in un anno questi progetti sono stati realizzati. Questa è stata una cosa veramente straordinaria, bellissima, e spero appunto che si ripeterà positivamente anche l'anno prossimo. Cioè lei dovrebbe tenere dei corsi secondo me da qualche parte per spiegare come si fa agli altri sindaci, non per parlare male degli altri, però insomma quando si trova il modo di realizzare delle belle cose come quelle che fate voi, davvero bisognerebbe trovare la via poi di espandere e ripetere il modello. Forse invece però per dirci da dove avete tirato fuori i soldi nel bilancio per questi investimenti ci vorrebbe un'altra puntata, non lo so, perché con quello che si vede in giro in termini di enti locali alla canna del gas viene a chiedersi come avete fatto voi. Ma guardi, senta, il bilancio degli enti locali è fatto di priorità, soprattutto ora con questa mi permetta, uso una brutta parola, insomma, con questo massacro da parte del governo sugli enti locali. Gli enti locali sono tagliati, i bilanci degli enti locali sono tagliati in maniera, io penso, veramente vergognosa, mi permetta di dirlo. Nonostante questo, appunto, il bilancio è fatto di priorità. Noi abbiamo scelto alcune priorità all'interno del nostro bilancio. La prima priorità è quella della spesa sociale. In momenti come questi è chiaro che un bilancio deve prevedere sostegno alle fasce più deboli della popolazione e il nostro bilancio prevede il 30% delle spese correnti che è destinato proprio alle fasce più deboli della popolazione, al sostegno sociale, all'aggregazione, all'educazione e comunque a quelle, diciamo così, a quelle situazioni delicate che hanno più comune, bisogno, diciamo così, una questione di priorità, insomma. È una questione di priorità, i 400.000 euro l'abbiamo trovate semplicemente cercando di tagliare qualcosa rispetto alle iniziative che facevamo sul territorio, in particolare le iniziative turistiche, erano tantissime, le abbiamo ridotte, le abbiamo messe in un contenitore che ha espresso tre grandi manifestazioni invece sì, magari di 30 o 40, abbiamo ricavato questa somma aggiunta ai tagli inevitabili alle spese di rappresentanza. Insomma, avete fatto anche voi una spending review, avete dovuto rivedere le priorità e i capitoli di spesa. Però diciamo che vista da questo punto di vista può anche non essere una cosa del tutto e solo negativa. Il resto lo lascio a lei, le sue parole di critica ai tagli che ha fatto il governo agli enti locali. Io la ringrazio e ci risentiremo più avanti, vedremo la riedizione del bilancio partecipativo dove vi porterà e anche altre iniziative che vengono da Capannori. Grazie al sindaco Giorgio Del Ghingaro, buona giornata. Grazie a voi, buongiorno a tutti. E buon lavoro. 800 24 00 24, ripeto, sindaci, assessori, comuni, più piccolo è, meglio è, raccontateci, se ce l'avete, anche voi le vostre buone pratiche per quanto riguarda, per esempio, la gestione del bilancio che fa infuriare i cittadini. Adesso andiamo in tutt'altro mondo. Come Un annuncio su un sito di raccolta fondi per iniziative startup, un progetto, mettere il business della pornografia al servizio di belle cause. E poi un sito che nasce, com4.org. Insomma, anche questa è una storia di cui parliamo adesso, che ci dice che si può fare, si può mettere una cosa discutibile come la pornografia al servizio di belle cause. Ne parliamo con Riccardo Zilli. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Uno dei fondatori di questa iniziativa del sito com4.org. Prima di tutto, ovviamente, l'idea non poteva passare inosservata e siccome la pubblicità gratuita è una delle regole del bravo manager, complimenti. Esatto. Complimenti a voi, perché grazie mille. Intanto grazie mille. Siete riusciti ad attirare un po' di attenzione su di voi. Il sito, prima di tutto, siamo andati a vedere, esiste già o è in fase di decollo? Come funziona? Di che si tratta? Allora, il sito in realtà ancora non esiste, nel senso che cioè, avete preso i soldi e il sito però non c'è. No, non fate che prendi i soldi e scappa, perché No, quello non assicuro, nel senso che comunque noi su questa cosa, che è un po' come dicevi tu, un po' delicata, ci abbiamo messo la faccia, quindi sapete perfettamente chi andare a prendere. No, noi innanzitutto non avevamo i soldi per farlo, quindi avevamo bisogno dell'aiuto delle persone che in qualche modo potevano credere in un'idea del genere. E questo aiuto è arrivato, e questo è il primo step. Il primo step è stato portato a casa, quindi abbiamo raccolto quasi 15.000 euro, anzi quasi 16.000 euro, scusami, con i quali realizzeremo questo sito, che chiaramente ha una serie di complessità che stiamo cercando un pochettino di risolvere, ma insomma, come funziona? Stiamo operando per farlo. Il funzionamento sarà molto semplice. Nella pratica ci saranno video porno, che ci teniamo che saranno video pornografici, che verranno pubblicati dai partecipanti alla community di Canfor. Nello stesso modo, coloro che vorranno in qualche modo partecipare guardando questi video contribuiranno a aumentare da un lato gli introiti pubblicitari e dall'altro stiamo strutturando un modello che in qualche modo possa anche creare delle donazioni di un altro tipo. Tutte queste donazioni andranno a sostenere delle cause di beneficenza che noi sceglieremo da un lato e seguiremo nella loro fase attuativa, cioè come spenderanno i nostri soldi. Il sottotitolo dell'iniziativa si può dire secondo te alla radio? Secondo me sì. E diciamolo, dillo. Il porno con il cuore, intendi quello? O quell'altro? Perché ne abbiamo fatti un po' tanti. Forse ne avete fatti tanti. Cosa puoi fare per la cosa puoi fare per il mondo? Una sega. Diciamo che qui ci hanno aiutato questi amici creativi. Creativi delle Balene, che sono un'agenzia di comunicazione di Milano, che insomma ci ha fatto tutta la parte un po' di comunicazione del progetto, che era fondamentale insomma per fare sì che l'iniziativa fosse in qualche modo conosciuta. Per voi mi sembra di capire che è ovvio il famoso detto che il fine giustifica i mezzi, cioè in questo caso è palese, sì. No? Sì, diciamo di sì. Allora, quello che noi vogliamo fare è un'iniziativa duplice. Da un lato siamo molto intenzionati a portare a casa lo scopo del nostro progetto, cioè raccogliere fondi attraverso la pornografia per delle iniziative benefiche. Dall'altro, chiaramente, vogliamo anche aprire uno spazio, un po' di dibattito sulla pornografia, che in qualche modo è diventata ormai, e questo mi sembra palese, una parte fondamentale della vita online delle persone, perché internet ormai è chiaramente questo, ma se ne parla secondo noi troppo poco, e quindi ci sono degli spazi ancora un po' bui che vogliamo, come dire, aprire per capire se effettivamente si può fare, ma altrettanto ce ne sono altri assolutamente tranquilli, legali. Anche questo lo useremo per il promo del programma, si può fare. Un'ultima cosa in 30 secondi, è anche divertente quello che state facendo. Sì, noi ci stiamo divertendo molto. Però è anche un po' imbarazzante, forse, proprio per quello di cui stai parlando tu, quest'area buia. I vostri genitori lo sanno quello che state facendo, siete abbastanza giovani tutti. Sì, siamo arrivati fino al primo grado di separazione. I miei genitori sì, i miei nonni no. Mi sono fermato a quello. Con i nonni è un po' più difficile. Ancora censuro. Leopoldo ci chiama dalla provincia di Napoli, buongiorno. Buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione, è un'ottima idea parlare di cose positive in questo periodo. Ci proviamo. Prego. Ci riuscite, molto brevemente. Bisogna essere grati al sindaco per aver restituito uno spazio di pace in una città che è nota per tutti i problemi che ha. Ma fare un'annotazione importante, questa pista ciclabile, se è vero, dà la possibilità ai napoletani di potersi muovere in una maniera diversa, che Napoli è una città con una grande quantità di problemi, di smog e di caos. Questa pista ciclabile in alcuni tratti è veramente sindacabile nel modo in cui è stata realizzata, perché diverse attività commerciali, io abito proprio nel tratto che è stato inaugurato la settimana scorsa, diverse attività commerciali proprio sul Viale Augusto sono state fortemente colpite con un abbassamento del fatturato del 50%. Per via clienti... della pista ciclabile, no, per via dell'area pedonale. No, quella è una, proprio una pista ciclabile. E in questa zona, che sarebbe la zona anche più rappresentativa, fatta meglio dal punto di vista estetico, c'è il problema che diversi commercianti, decine e decine, stanno soffrendo tantissimo, per cui la possibilità per farla altrove c'era e non è stata fatta, perché esiste una strada parallela che avrebbe consentito di evitare questo problema. Magari, diamo tempo al tempo, grazie intanto Leopoldo, può darsi che la gente vada a fare spesa non più con la macchina ma in altro modo, coi mezzi o con la bicicletta. Questo è quello che accade normalmente quando le aree pedonali e le piste ciclabili poi vanno a buon fine. Chi lo sa, staremo a vedere. Un altro ascoltatore, Antonio da Napoli, buongiorno. Antonio? Non c'è Antonio. Andrea dalla provincia di Lucca, cambiamo zona. Buongiorno Andrea. Buongiorno. Prego. Buongiorno Radio 24, io sono un cittadino del comune di Capannori e con la libertà di chi non ha niente da chiedere al mio sindaco, che nemmeno conosco personalmente, vorrei dire che effettivamente io mi rendo conto che la nostra è una buona amministrazione, fatta di gente giovane, gente motivata, e però credo che abbia anche la fortuna di avere anche dei cittadini abbastanza bravi, in gamba. Io telefonavo per dire che mia moglie, che è insegnante, sì, insieme a genitori e ad altri insegnanti, ieri e oggi sta imbiancando una parte della scuola praticamente nella quale lavora. Un'altra parte era stata rifatta nuova dal comune, e riconosco che effettivamente sta lavorando bene questa nostra amministrazione, e mi dà un grosso problema però, ed è questo che mi impedisce di dire che tutti gli amministratori sono dei ladri. E questo, cioè, il fatto che a Capannori le cose vadano bene le impedisce di dire che sono tutti ladri. Sono lei dice, tutti ladri. Questo un, esatto, po' le dispiace, perché lo vorrebbe dire. No, io no, vorrei dire veramente che sono tutti bravi, ma purtroppo la realtà non è proprio questa. Fermiamoci qua, sono molti ladri e ci sono molti bravi, come per esempio voi a Capannori. Brava anche la moglie, che sta trascorrendo il sabato ad imbiancare la scuola, perché quello che fa il pur bravo sindaco non basta mai. Grazie Andrea da Capannori. 800 24 00 24 per intervenire in diretta oggi, e magari tra poco sentiamo qualche altro ascoltatore. Modo per essere eroi per un giorno, come canta in questa splendida canzone David Bowie, è essere volontari per un giorno, un progetto Volontari per un giorno a Milano, da ottobre a dicembre, che adesso spiegheremo nel dettaglio. Sono degli eroi anonimi volontari che, insomma, è bene ricordarlo ogni tanto, fanno delle cose, danno agli altri senza chiedere nulla in cambio, e non è una cosa da poco. Alessio Giordano, buongiorno, dell'associazione CSV. Buongiorno a tutti. Volontari per un giorno a Milano, un progetto, diciamolo subito, un'iniziativa promossa da CSV, Sodalitas, BPM e Anguru, e col patrocinio del Comune di Milano, Commissione Europea, Fondazione Cariplo, la partecipazione di Milano Altruista al Forum del Terzo Settore della Lombardia. Ho detto tutto io, così era giusto ricordarlo. Come sta andando questa campagna e in che cosa consiste? Allora, sta andando molto bene per il momento. Abbiamo numeri molto elevati. Volevo aggiungere tra i ringraziamenti anche IGP, che ci ha permesso di pubblicizzare al meglio l'iniziativa attraverso la sua rete nei canali della metropolitana di Milano, e anche Coinetica, che ha ideato il progetto insieme a noi e a KPMG l'anno scorso, che quest'anno, per dirla in termini sportivi, fa il tifo per noi e ci segue. Sta andando molto bene, stanno partecipando in molti, abbiamo già 400 iscritti al sito, più di 150 attività, 100 associazioni che hanno partecipato, questi numeri si stanno evolvendo, quindi ogni giorno sì. aumentano. E diciamo, per ribadirlo, che il vostro è la vostra un'iniziativa che serve per incentivare la partecipazione al mondo del volontariato, perché offrite la possibilità a chi lo desidera di sperimentarsi, di provare appunto per una giornata com'è la vita del volontario, così? Esattamente, un giorno per scoprire un mondo recita lo slogan, quindi chi non l'ha mai fatto eccetera può conoscere quelle che sono le associazioni di Milano, quello che propongono, quello che fanno ogni giorno sul nostro territorio, e sono migliaia e migliaia. Per esempio, vogliamo ricordare alcune di queste associazioni, quelle che ti piacciono di più, quelle che magari vengono più così richieste anche da chi si affaccia tramite la vostra iniziativa a questo mondo, per dare una rinfrescata, anche magari uno si aspetta, pensa soltanto, che ne so, accompagnare la vecchietta all'ospedale, ma ci sono mille altre cose, no? Assolutamente no, infatti, piacere mi piacciono tutte, ci mancherebbe, le tematiche sono tantissime, quindi dall'assistenza, come hai citato, agli animali, agli stranieri, bambini e famiglie, ambienti e via dicendo. Per fare un po' di nome, è giusto le ultime che sono apparse sul sito, la Lega Italiana Sclerosi Sistemica, l'associazione Amico Onlus, l'associazione Salute Donna Onlus, la fondazione Rosangela D'Ambrosio, il centro orientamento educativo, sarebbe un elenco molto molto lungo, Medici Volontari Italiani, Centesimus Annus, via dicendo, ecco. Cosa un'altra cosa che si può dire, secondo me, perché fa bene fare il volontariato, chi lo ha sperimentato lo può tranquillamente dire, perché fa bene a chi lo fa, non solo a chi lo riceve, questa è la cosa straordinaria. Esattamente, quindi esattamente, si è volontari, si dona il proprio tempo, che è una delle cose più preziose che abbiamo, per gli altri, e qualcosa torna anche a noi, l'esperienza, la conoscenza delle persone, la realtà del nostro territorio, quindi sono tante le cose che tornano indietro a un volontario. E se posso aggiungere anche, torna indietro proprio questo senso di poter padroneggiare l'ansia che c'è oggi, che non ci manca sempre il tempo, che non riusciamo mai a fare quello che vorremmo fare, invece uno si ferma un attimo e dice no, non è vero, io il tempo me lo posso riorganizzare secondo delle priorità. E proprio questo fatto di essere padroni delle proprie energie, si decide di donarle a qualcuno. Questo ci fa sentire un po' più grandi del solito, credo. Esattamente, esattamente. Il tempo è prezioso. Insomma, quanto tempo c'è ancora per aderire all'iniziativa? Ricordiamo i canali, così chi si fosse interessato, anche sentendo questa intervista, cosa può fare? Buongiorno.it, il singolo cittadino, il volontario, l'azienda, la scuola può arrivare sul sito e, seguendo appunto il tragitto indicato, iscriversi a un'iniziativa, proporre una propria iniziativa, proporre in quanto azienda ai propri dipendenti di partecipare a un'iniziativa proposta, o le scuole, che per ultimo adesso andremo a lavorare anche sulle scuole per far partecipare i ragazzi appunto a queste iniziative di volontariato. Ricordo anche che abbiamo una pagina Facebook molto visitata, e anche su Facebook riusciamo, grazie, a comunicare tutte le nostre iniziative. Ogni giorno ce ne sono di diverse, quindi invito tutti, anche chi si è già iscritto, di continuare a venire sul sito e vedere tutte le attività che sono. Benissimo, proposte. Benissimo, grazie ad Alessio Giordano, CSV, volontari per un giorno, l'abbiamo detto, e, insomma, chi fosse interessato c'è ancora tempo per scoprire il mondo del volontariato. 800 24 00 24, invece c'è ancora tempo per sentire Luigi da Napoli, che forse ci chiama per la questione della ciclabile. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo proprio per la ciclabile. Sì. Come dicevi, è una iniziativa meravigliosa, è una cosa di cui si sentiva la mancanza e ci fa sicuramente piacere. Però, come dicevi, è anche accompagnata dalla questione delle molte polemiche per il lungomare. Sì. E io vorrei capire questo però da voi. Se lei, per esempio, è favorevole così come è stata fatta oppure no? Allora, la ciclabile a noi piace tantissimo. Okay. Il problema non è solo il lungomare, sì? Ma contestualmente al lungomare sono state chiuse molte zone della città con delle ZTL feroci e molto ampie, che di fatto sono estremamente positive per i residenti. ma che tuttavia tagliano fuori chi in maniera pesante chi viene dalla provincia, perché comunque ci troviamo a dover magari, chi per lavoro, chi per svago, ad andare al centro di Napoli. Insomma, vabbè, questo è un problema classico. Io ringrazio anche lei, Luigi. Ogni volta che si chiude un pezzo di centro storico alle automobili, che sono il mezzo normale di locomozione, di spostamento delle persone, si crea questo effetto di tagliar fuori una parte della città. Non è bello, però bisogna dar tempo al tempo di capire se con i mezzi pubblici, con le biciclette o con altro si ricrea un legame tra l'esterno e l'interno. Se questo avviene, il progetto è di successo, se no forse si è sbagliato qualcosa. Mi pare che questo sia il senso del mini sondaggio di oggi all'800 24 0024. Yeah! Progetto finanziato dalla Regione Puglia con fondi europei, Rigenerazione Urbana Lecce, il laboratorio urbano aperto e il nostro prossimo ospite, Yuri Battaglini, buongiorno, un architetto. Buongiorno. Siamo partiti dal investimenti fatti dal Comune di Capannori sulla scuola, sul verde pubblico e su altre cose e finiamo a Lecce, dove questi progetti sono progetti di architettura e progettazione partecipata, cioè si cerca di definire zone della città su cui intervenire per modificarle, migliorarle grazie anche alla partecipazione dei cittadini. Progetti concreti, voi state costruendo proprio in questi giorni, è iniziata la costruzione di cosa, dove, Yuri? Sì, appunto, abbiamo iniziato, in realtà abbiamo iniziato da un po' di mesi, ora siamo in una fase anche abbastanza avanzata del cantiere. Siamo in un quartiere che si chiama quartiere Leuca a Lecce, è un quartiere abbastanza complesso perché connette il centro storico con arriva fino in periferia, quindi è piuttosto stratificato, e abbiamo deciso di iniziare una sperimentazione in una parte di questo quartiere, costituita da tante stradine più o meno dimenticate all'interno di questo quartiere, che connettono vari spazi verdi o potenzialmente verdi della città. E tra l'altro abbiamo appena sentito i problemi di collegare il centro alla periferia a Napoli, per esempio, dove queste nuove zone pedonali sembrano tagliar fuori una parte della periferia dal centro. Questo naturalmente bisogna evitarlo. E lì invece a Lecce, per esempio, questa zona di passaggio, come è stata vissuta anche dalle associazioni che hanno partecipato a ridefinire questo spazio? Infatti proprio questo è un aspetto interessante. Diciamo che non abbiamo pedonalizzato, proprio uno degli input delle associazioni che abbiamo coinvolto per costruire questo progetto, che è un'associazione che si chiama Cicloamici, ci ha dato l'input di costruire invece tante zone 30, cioè zone all'interno delle quali si va semplicemente a 30 km orari, e per fare questo abbiamo anche attivato una serie di dispositivi all'interno del progetto. Ma questo già, scusami Yuri, questo già sta avvenendo, cioè già si circola a 30 in queste zone? Nella parte che abbiamo appena, stiamo per costruire, cioè per chiudere, insomma, nell'area in cui stiamo chiudendo il cantiere, Quindi diciamo questo avverrà appena il cantiere sarà chiuso? Sì. Per cui questa è la notizia che possiamo dare a Lecce, magari non tutti se ne stanno accorgendo, c'è una zona, tra l'altro questa è una delle richieste che viene dal mondo dei ciclisti. Sapete che c'è tutto un mondo che fortunatamente si sta agitando, fortunatamente, perché chi va in bici fa bene a sé e all'ambiente sicuramente, e quindi è un bene che tutto questo stia crescendo, però purtroppo ci sono sempre vittime sulla strada, perché lo scontro tra l'automobile e il ciclista è fatale, e questa è una delle richieste. A Lecce si sta facendo. Sì, infatti, questo è anche, definisce anche un po' questo aspetto interessante, cioè secondo noi, insomma, che abbiamo avviato, cioè un processo che coinvolga le associazioni nella definizione della progettazione della trasformazione urbana, che poi è quello di cui ci occupiamo da un po' di anni come associazione, e per farlo all'interno di questo laboratorio urbano, insomma, che abbiamo avviato già dal 2009 a Lecce, all'interno di questo laboratorio abbiamo cercato di interagire come tecnici con quante più associazioni possibile, proprio per mettere anche un po' in crisi il solito processo progettuale che vede i tecnici coinvolti chiusi magari nei loro studi oppure a dialogare. Un'immagine plastica questa dei tecnici e degli architetti chiusi nei loro studi con i loro tecnigrafi che disegnano e designano come verranno organizzate poi le cose concretamente sulle strade. Bello sarebbe farlo anche per la costruzione dei palazzi, per esempio, perché ogni tanto si vedono degli scempi. Se la gente avesse potuto partecipare, sicuramente avrebbe bocciato certi progetti che entusiasmano gli architetti, ma diciamolo, poi alla prova concreta deludono. Voi state un po' vivendo questa rivoluzione copernicana. Sì, e anche perché diciamo abbiamo spostato proprio l'interesse dalla fase ultima della progettazione, che è la costruzione, al processo. Diciamo, non è tanto arrivare all'estetica, che comunque è importante della progettazione, ma è interessante attivare dei processi che possano poi man mano costruire delle nuove conformazioni all'interno dello spazio urbano o dei nuovi palazzi. Per farlo appunto questo, per fare diciamo questo tipo, avviare questo tipo di processi, è piuttosto importante essere in molti. Va bene, grazie, dobbiamo fermarci qua, come avrete sentito anche dalla musichetta che incalza, grazie. Questo è il progetto che veniva da Lecce. Io ringrazio Franco Piantanelli in redazione, Giorgio De Luca per l'assistenza in diretta quest'oggi, Andrea Piana che ha scritto con me il programma, Filippo Aureggi in regia, anche da Alessio Maurizi l'augurio di una buona giornata. Ci sentiamo domani a mezzogiorno, si può fare.